comitati dell'acqua è già da tempo che solleviamo questo problema. È chiaro che siamo di fronte a una crisi climatica che dovrebbe fare riflettere tutti, la politica, le amministrazioni, sulle ripercussioni che questa crisi climatica ha su tutte le questioni. Ovviamente dal punto di vista dei servizi idrici e del reticolo idrografico del nostro territorio la situazione è veramente assai grave, insomma lo vediamo sia per quanto riguarda i fiumi sia per quanto riguarda il fatto che di fronte a una siccità così alta il numero di rotture delle tubazioni ovviamente diventa più alto. Questo corrisponde anche al fatto che diciamo il degrado della rete idrica è un degrado diciamo così molto forte. Noi pensiamo che questa problematica non possa essere affrontata secondo logiche di profitto e quindi le aziende che oggi gestiscono il servizio idrico sono completamente orientate alla ricerca della massimizzazione dei profitti e dei dividendi per i soci. Quindi è evidente che in questa prospettiva passa tutto in secondo piano, la qualità del servizio, la gestione di questa crisi. Io credo che la responsabilità maggiore stia in mano alla politica e alle amministrazioni pubbliche, perché sono quelle che dovrebbero fare le scelte decisive, peraltro già fatte dai cittadini italiani con il referendum del 2011, dove dicevano chiaramente che la gestione del servizio idrico dovrà essere pubblica e orientata a risolvere i problemi legati al rifornimento del servizio idrico. Questo è il punto basilare. I soci pubblici, visto che parlavamo di dividendi, dagli utili delle multi-utility prendono ingenti risorse, però sul piano degli investimenti appunto per migliorare la rete idrica? Guardate, in realtà da quando era è stata quotata in borsa, per venire a un esempio vicino a noi, almeno 1 miliardo di utili sono stati suddivisi fra gli azionisti, mentre avrebbero potuto essere utilmente utilizzati per manutenzioni straordinarie una rete idrica, rendendola più efficiente, rendendola più in grado di affrontare diciamo una situazione di crisi siccitosa come quelle di questi anni, insomma. Sempre in questi giorni si parla come possibile soluzione di creare nuovi invasi presso gli alvei dei fiumi. È una strada che secondo te ha senso? Ma questa qui è una ricetta vecchia. La discussione sulla famosa diga di Castrolo è andata avanti per 20 anni senza portare niente. Si tratta di tecnologie obsolete, sono tecnologie del 900. Oggi bisognerebbe pensare a reti intelligenti con una grande manutenzione sulle reti, il rifacimento di quelle tratte che si rompono continuamente. Ognuno di noi ha esperienza di un luogo dove le rotture si ripetono anno dopo anno, eccetera. Quindi è chiaro che in quei punti lì il tipo di manutenzione dovrebbe essere più drastica, più radicale, col rinnovamento delle tubazioni e tutte le precauzioni per impedire che tutte le volte ci si trovi di fronte a un sistema così degradato, ma è evidente che la manutenzione viene regolata dalla questione dei dividendi e dei profitti, si fa lo stretto indispensabile e si agisce sempre ex post, dopo che sono avvenute le rotture si va a ripararle, ci vorrebbe un piano di investimenti più alto e ovviamente questo sarebbe possibile utilizzando quelle risorse che le bollette mettono a disposizione ma che oggi trovano invece di essere reinvestite nel servizio altre strade. Il ragionamento che fanno i comuni, sì ma con questi dividendi ci facciamo delle attività pubbliche, è stupido perché non fa i conti col problema specifico della questione idrica, cioè il surplus che deriva del resto dalle nostre bollette dovrebbe andare lì a fare un sistema di reti idriche più efficiente, invece va disperso per gli azionisti di era, insomma, questo non va bene. Ecco, a proposito di bollette, ai tempi dei referendum come comitato Acqua Bene Comune avete spiegato bene le storture legate proprio alla questione del profitto su questo tema. Ora che c'è crisi idrica dobbiamo aspettarci che aumenti il costo dell'acqua e quindi insomma le bollette aumentino? Ma le bollette anche se non c'è la crisi idrica sono destinate ad aumentare in maniera esponenziale comunque, perché basta, chiunque può guardare le sue proprie bollette degli ultimi 10 anni e vedrà che c'è stato un progressivo aumento, addirittura con aumenti che sono da ricondurre anche ai periodi in cui c'era un risparmio idrico, si realizzava un consumo inferiore a quello previsto previsto, e questo invece che determinare un calo delle bollette ha aumentato un aumento delle bollette. Io ricordo sempre che il comune di Parigi, che ha ripubblicizzato il servizio, ha liberato risorse sia per gli investimenti che per la riduzione delle bollette. Quindi vuol dire che dal punto di vista di quello che paghiamo dell'acqua, noi paghiamo delle cose che non c'entrano niente con i costi del servizio idrico, ma c'entrano esclusivamente col bisogno di remunerazione e di profitto che hanno le imprese. Quindi questo è un sistema distorto. L'acqua, oltre che essere un bene comune, un bene indispensabile, e andrebbe gestito con una grande cura, avendo in testa degli obiettivi di benessere per i cittadini, per il territorio e per l'ambiente. Tutto questo non può avvenire in una logica di mercato.